che mi soccorre, oh nomi, ohimè, che miro, Angelica, seguita da un cavalier, fuggendo va nel bosco, volo a correr sull'orme. Amor, caro amore, assistimi tu, tu nomi, imploro, ah, mi doro, chiami in van. Dove m'ascondo? Non fuggi dai, se non fai nell'altro mondo. Young. Thank you.